smack. He bought a jack, he bought a shotgun. 'Cause he was in the mood for a little confrontation. He just let it all hang loose. He didn't think about the noose. He couldn't take no more abuse, so he shot down the congregation. You can't talk to a man with a shotgun in his hand. Shotgun. Now Big Jim the chief stood for law. In chiusura vi volevamo leggere un piccolo brano di Dorothea Brockman, che era una appartenente al gruppo femminista Rote Zora, un gruppo appunto tedesco degli anni 70, e un brano che abbiamo preso dal blog di Nicoletta Poedimani, la compagna con cui abbiamo fatto l'intervista oggi. E inizia così: sei pazza, ci dicono quando andiamo troppo lontane, quando oltrepassiamo i limiti che imprigionano il nostro quotidiano. Sei pazza, lasciateci la nostra follia, a noi donne, nella trasgressione dei limiti che confinano la nostra vita e soffocano la nostra dignità. Tu sei pazza, è la reazione maschile a questo affrancamento. La nostra reazione a questa razionalità mortale del patriarcato ci ritorna come ingiuria, come un lazzo che dovrebbe catturare la nostra radicalità. Ma noi non abbiamo altra scelta che essere radicali. È l'unico modo per riprendere in mano la nostra dignità e la nostra vita. Quindi vi ricordiamo i nostri indirizzi ecco. Il blog, che è coordinamenta.noblogs.org, l'email coordinamenta@autistiche.org, e anche il sito di Nicoletta Poedimani, che è Nicoletta Poedimani. www, è un sito, sì. Quindi comincia con www.nicolettapoedimani.it. E volevamo salutare anche tutti coloro e tutte coloro che sono privati e private della libertà personale. È un saluto particolare ai notav e alle notav, che pagano un prezzo altissimo per la loro lotta. Ciao. Ciao. It was a good solution, hanging with the raisin girls. She's gone to the other side, giving us a yo-yo. Things are getting kind of gross, and I go at sleepy time. This is not really, this is not really happening. You bet your life. With my hands I could be her. They must have paid her a nice called the Watchword. Your engine is on. pressure is low, low, low, low. Ore 21.10, Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza. Dopo una settimana di assenza, va in onda prove tecniche di trasmissione fino a circa le 22.30. Con l'elettro dei controlli e con il consueto contenuto musicale che verte dall'elettronica al dark ambient, all'industrial, alla power electronics, allo space ambient. Il programma che esiste ormai dal lontano 1992. Per i primi 3 anni in combutta con il buon DJ Tank e poi dal 95 in poi in splendida solitudine. Alle 22.30, come ho detto, 25 o'clock, al quale spetterà di concludere questa giornata dell'11 dicembre 2013. L'indirizzo di posta elettronica è ondarossa@ondarossa.info. Per questo spazio disorder@ondarossa.info, e naturalmente c'è anche il sito, utilissimo e fondamentale per chi ci sta ascoltando attraverso un computer e quindi con lo streaming, www.ondarossa.info. Lui si chiama Cervello Elettronico, con il quale iniziamo questa puntata di prove tecniche di trasmissione. Il suo ultimo lavoro si chiama Anima Meccanica. Questa è Vertebre, seguita da Instant Trauma. We'll be right back. chiama Cervello Elettronico, che nasconde il nome di David Christian, artista italo-americano. E il suo ultimo lavoro si chiama Anima Meccanica, esce per la Hans Productions, questa etichetta che i più affezionati sanno, fondata da Udo Wiesemann, meglio conosciuto come Winter Cult. Stiamo parlando dunque del Gotha del Rhythmic Noise. E questa uscita di Cervello Elettronico è una delle migliori per quanto riguarda questa etichetta nel 2013. Peraltro, personalmente, questo disco mi ricorda certe atmosfere già conosciute in passato attraverso i canadesi Orphex, molto più noti rispetto a Cervello Elettronico, ma credo che l'influenza maggiore provenga proprio da lì. Un saluto a Gianni November e Verushka, che forse ci sta ascoltando dalle parti di Reggio Emilia, chissà. Noi andiamo avanti, lo facciamo con uno dei tanti progetti ai quali partecipa il buon Uru degli Asher Zen e Baten. Sto parlando di C-Machine, dei quali ci ascolteremo Faction On, seguiti da Mandelbrot, una emanazione più o meno ambient industrial di Sunescape nella figura di Philip Munch, e di lui ci ascolteremo questo titolo veramente in codice 21-12-2012. e sui Mandelbrot. Andiamo anche a salutare il buon Alexis che ci sta ascoltando dal Perù, esattamente da Lima. Ebbene, abbiamo, ci siamo un po' fermati in questa compilation dal nome Schlangstrom Number 7, dalla quale abbiamo estratto, come già detto, Chin Machine, Mandelbrot, ma anche questi Sid Rick con questa traccia percussivo metallica dal nome Eclat, Sid Rick in coppia con Axiom e quindi con Olivier Moreau, meglio conosciuto come Imminent Starvation. 21:37, Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza. Si saluta di nuovo il buon Alexis, che confermo in ascolto dal Perù con le sue 6-7 ore in anticipo rispetto qui a Roma. E adesso ci andiamo ad ascoltare un progetto composto da due personaggi provenienti dalla Spagna, Alicia Villan e Francisco Planellas, si chiamano Proyecto Mirage, ultimo lavoro dal nome Steam Tech, con tanto di copertina colma di ruotoni industriali, meccanismi a noi molto cari. E ci andiamo ad ascoltare Came to Know e Cold Fire da questo ultimo lavoro per gli spagnoli, Proyecto Mirage. E dunque anche questa volta attraverso la Ernst Productions di Dortmund ci siamo ascoltati l'ultimo lavoro per gli spagnoli Proyecto Mirage. Si chiama Steam Tech. Proyecto Mirage che hanno fluttuato tra la Ernst e la Antezen, tra virgolette la loro consorella, etichetta sempre tedesca e sempre operante nel medesimo e con il medesimo soprattutto approccio musicale. Da questo Steam Tech è un album molto interessante, ci siamo ascoltati Can't You Know e Cold Fire. La Spagna peraltro ha dato alla luce progetti molto interessanti nel passato, per esempio i grandi Esplendor Geometrico e più recentemente Guys Form Shorai e questi Proyecto Mirage, guarda caso tutti con la Ernst Productions. Lo stesso Valerio Evangelisti degli Esplendor Geometrico a livello solista ha inciso per la medesima label. E adesso ci spostiamo in Italia, esattamente a Milano, con i Camerata Mediolanense, vecchio termine di origine rinascimentale con cui si intendeva un gruppo di letterati e musicisti. E loro sono nello specifico Elena Previdi, Daniele Badeschi, Trevor, Marco Colombo e Manuel Aroldi. Da qualche giorno è uscito il loro Vertute Honor Bellezza che ci ascolteremo in futuro, per cui noi siamo andati a riprendere invece un vecchio lavoro del 1999 che usciva per la tedesca Triton, si chiama Madrigali, con moltissime cover di vecchi brani popolari riveduti e corretti ed esposti con la loro sensibilità un po' gotica, un po' neoclassica, rinascimentale e barocca. E quindi ci ascoltiamo il primo brano dal nome Der Tod e la terza con un canto popolare russo molto famoso dal nome Podmoskivie Vesera.